Sul mare luccica l'astro d'argento, placida l'onda, prospero al vento. Sul mare luccica l'astro d'argento, placido l'onda, prospero al vento. Benitenda Cile, barcetta mia, Santa Lucila, Santa Lucila, tu sei l'impero dell'armonia, Santa Lucila. Santa Lucia, o dolce Napoli, o sol beato, o viso ridere, bolli il creato, o dolce Napoli, o sol beato, o viso ridere. Santa Lucia, Santa Lucia, barcetta mia, Santa Lucia, Santa